America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero, riunioni annuali del Fondo Monetario, Banca Mondiale, riunioni tese perché c'è un indice puntato contro l'Europa. L'Europa oggi è l'epicentro del problema, dicono un po' tutti, è meglio che gli europei facciano qualcosa per risolverli questi loro problemi, perché altrimenti tutto il mondo ne risentirà. Ebbene, ho anticipato ieri sul nostro giornale un'ipotesi di soluzione, un'ipotesi piuttosto importante se andrà in porto, un'ipotesi che prevede la creazione di un veicolo che sarà dotato di capitale erogato dalla EFSF, cioè il European Financial Stability Fund. Doterà questo veicolo di circa 200 miliardi di euro. L'ipotesi è che la Banca Europea per gli Investimenti, la BEI, proceda sul piano tecnico per un indebitamento con una leva fino a 8-10 volte quella che è la dotazione di capitale, e dunque stiamo parlando di un veicolo che potenzialmente potrebbe essere dotato fino a 2.000 miliardi di euro. Ecco, se così sarà, se questo davvero si verificherà, ci sarà un momento svolta, perché questo fondo è un fondo salva stati, è un fondo che dovrebbe risolvere alcune delle paure di contagio che ci sono oggi in Europa. Questa idea è un'idea che ha preso corpo alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale qui a Washington, dove le pressioni nei confronti dell'Europa sono state sempre molto molto forti. Sentiamo Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale. Today we agreed to act decisively to tackle the dangers confronting the global economy. The IMFC asks the IMF and the management of the IMF to play a decisive role and to be fully engaged. And that takes very specific forms. La Lagarde prende atto del fatto che l'Europa rappresenti un problema. In questa sua dichiarazione specifica dice che c'è stato un mandato al Fondo Monetario e al board del fondo di assumere una posizione di primissimo piano nella gestione della crisi, di intervenire ancora di più di quanto non abbia fatto finora. Quindi la prima gamba confermata che abbiamo avuto da queste riunioni di Washington è che il Fondo Monetario Internazionale in prima persona assumerà un ruolo molto attivo. Ma un ruolo del Fondo Monetario non basta, ci vuole qualche cosa di più. E abbiamo sentito parole, devo dire, insolitamente dure, aggressive, da parte del segretario al Tesoro, Tim Geithner. I think if you watch carefully what they've done, and if you watch carefully what they're going to do going forward, I think you're going to see them draw on the lessons of our crisis, draw on the lessons of things that worked here in the United States, because they've like met the test. In questa dichiarazione, Tim Geithner, segretario al Tesoro americano, dà un messaggio preciso. Dice: io credo che se cercheremo di seguire cosa faranno gli europei nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci renderemo conto che seguiranno molto quello che abbiamo fatto noi, quello che è stato il nostro modello, perché noi siamo già passati in mezzo a una situazione di crisi molto difficile. Dunque potranno derivare alcune lezioni, ovviamente applicate a seconda dei casi diversi in modo diverso, ma potranno trarre alcune lezioni da quello che abbiamo già fatto noi. Ha colpito i banchieri, i funzionari, i ministri che sono qui a Washington, al fondo, che ormai stanno rientrando, ovviamente, perché le riunioni si sono di fatto chiuse formalmente ieri sera, ma ha colpito il linguaggio duro, aggressivo di Geithner, il quale a un certo momento ha detto: il rischio di un contagio è fortissimo, il pericolo di una corsa ai depositi bancari è alto e le conseguenze, se non si farà qualcosa subito al più presto, saranno catastrofiche. Ecco, il fatto che Geithner sia uscito così allo scoperto, da un certo punto di vista, è preoccupante, perché non è il ruolo di un ministro. C'è ovviamente una spiegazione di natura interna: gli Stati Uniti sono in difficoltà, Barack Obama è in difficoltà, i sondaggi non sono a suo favore, quindi l'amministrazione in genere cerca di buttare la croce sugli altri. Ma c'è un'altra spiegazione ancora più importante, cioè con questo suo linguaggio aggressivo Geithner tiene molto alta la pressione su quei ministri europei che resistono l'introduzione di uno strumento, di un pacchetto di tipo risolutivo, e mi riferisco naturalmente in particolare alla Germania. Ecco, Geithner, da quel che mi risulta, in alleanza con la Banca Centrale Europea, che preme per una soluzione verso un veicolo, verso il tipo di veicolo di cui vi parlai in apertura, forse è riuscito a ottenere qualcosa. Ci sono state dichiarazioni più conciliatorie del ministro delle finanze tedesco, e ci sono state delle dichiarazioni del ministro ministro del Tesoro italiano Giulio Tremonti, che ho incontrato a Washington, al quale ho fatto qualche domanda proprio sulla aggressività di Tim Geithner, se lui non ritiene che forse queste dichiarazioni siano un po' troppo aggressive. Sentiamo cosa mi risponde. Io non la trovo aggressiva, è l'ipotesi di una politica che per alcuni paesi è fattibile, per altri paesi, per il continente in Europa, è considerata non fattibile perché va contro il principio del rigore di bilancio, contro il principio della moneta che non si stampa. L'altro tema forte è che l'Europa è al centro del problema. Dunque, anche su questo ho chiesto al nostro ministro se concordi sul fatto che l'Europa rappresenti in effetti un problema. È evidente che in questo momento la crisi ha epicentro in Europa. E in ultimo, naturalmente, una sua valutazione se c'è qualche cosa che si sta muovendo qui a Washington e soprattutto nel contesto europeo. Per la prima volta nelle discussioni si apre anche dalle parti meno, come dire, meno apparentemente più tradizionali, e si dice se c'è una governance politica più forte ci può essere anche un consolidamento finanziario più forte. Per essere chiari, la parola proibita Eurobond sta circolando. Naturalmente nella forma meno aggressiva, meno innovativa, che è poi quella ipotizzata nella lettera, nell'articolo fatto da Juncker e da me, cioè dire dentro il trattato, sotto il 60%, non un modo per emettere di più, ma un modo per emettere la componente fisiologica nel modo più ordinato. E qui sarà strategico il fattore tempo. Si arriva in tempo o no? Ecco, dunque, Geithner fa un riferimento all'esperienza americana e che gli europei la stanno recependo. Il nostro ministro dice che per la prima volta sembra esserci un movimento in una direzione convergente per adottare, il nostro ministro parla di Eurobond, la formula sarà probabilmente quella di un veicolo simile, sul piano tecnico forse leggermente diverso, ma il concetto è lo stesso, stiamo parlando della stessa cosa. Christine Lagarde sostiene che ci sarà l'aiuto, l'appoggio del Fondo Monetario Internazionale. Risultato di tutto questo, non so quando ci sarà questo annuncio, ma so che in questa settimana si lavorerà freneticamente. Se davvero per il 3 ottobre, quando i ministri economici e finanziari europei si riuniranno, ci sarà questo passo in avanti, se ci sarà questo nuovo veicolo dotato di capitale depositato dalla EFSF, se ci sarà la BEI che procederà con la raccolta dei fondi sul mercato, se davvero si arriverà una leva di 8-10 volte, ed è questo uno degli oggetti del contratto, tendere, e se dunque arriveremo a una cifra a disposizione fra i 1.500 e i 2.000 miliardi, beh, credo che da allora in avanti saremo forse tutti più tranquilli. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 2 ottobre Sting festeggerà i suoi 60 anni. E beh, come lo farà? Con un concerto di beneficenza qui a New York al Beacon Theatre. Con lui per festeggiare ci saranno Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Lady Gaga, quindi grande, straordinaria festa. E di Sting vi faccio ascoltare Desert Rose. Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento domani. Goodbye and get going. America 24.